su colli il politico va. Capitano, lustrate da quello sciuscia, come uno scheletro dentro l'armadio, un uomo ripone il suo fez, mentre gli Yankee entrano a Roma, marciando a tempo di jazz. Ovvero un santi bagno sopra casa un corpo show. Allo, allo, America, mi senti? Mi sente? Sì, ma trasmetti in americano. Trasmetti in americano? Ok, ok. America, becca questa notizia.